Sezione diciassettesima di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre. Alla mensa dell'amico Giuseppe Chiarini. Non mai dal cielo ch'io spirai parvolo ridesti, o sole, bel nume, splendido a me, sì come oggi che fuso t'amo per l'ampie vie di Livorno. Non mai fervesti, bromio, nei calici consolatore saggio e benevolo, com'oggi ch'io libo all'amico, pensando i varchi dell'Appennino. O sole, o bromio, date che integri, non senza amore, non senza cetera, scendiamo alle placide ombre, là dove è Orazio, l'amico ed io. Ma sorridete gli auguri ai parvoli che, dolci fiori, la mensa adornano, la pace alle madri, gli amori ai baldi giovani e le glorie. Fine della sezione diciassettesima.